Le storie di Disperati Mai, raccontate da Radio 24, diventano un film. Per settimane abbiamo raccolto le testimonianze di piccoli e medi imprenditori che hanno cercato di resistere alla crisi. Storie di sconfitte e di vittorie. 5 di queste sono diventate cortometraggi che verranno presentati in anteprima al Festival delle Lettere di Milano. L'appuntamento è per giovedì 11 ottobre alle 18.30 nella sede del Sole 24 Ore, in via Monte Rosa 91 a Milano. In esclusiva, i cortometraggi di Disperati Mai. Entrata libera.